Perfetto Giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Eccoci di nuovo, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, e bentornati al podcast di Effetto Giorno. Al microfono, come sempre, Simone Spezia, e come sempre in questo spazio cerchiamo di rimettere ordine tra le notizie di questa giornata, di raccontarvi un po' come sono andate le cose. E naturalmente oggi non potremo che partire dall'elezione, o meglio dal giuramento e dal primo discorso del neo presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Gli altri argomenti che toccheremo: sicuramente la situazione in Ucraina, che sta diventando sempre più complessa, e probabilmente si può parlare di un vero e proprio stato di guerra. Parleremo, restando all'estero, anche di ISIS. Ci sono altre due vicende che vogliamo affrontare. La vicenda del sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca, al centro di una... quello che sta accadendo è quasi kafkiano, perché è stato prima sospeso dalla carica di sindaco, poi il TAR lo ha riportato in carica. Adesso c'è un nuovo procedimento che lo riguarda, che ha fatto sì che De Luca decadesse. Adesso arriva anche il ricorso in Cassazione, quindi un ennesimo passaggio giudiziario. E poi c'è la trattativa in corso in queste ore per quanto riguarda la scala, e l'apertura della scala il 1 maggio. Che cosa succede il 1 maggio? Il 1 maggio parte Expo 2015, ci dovrebbe essere la Turandot, il concerto di inaugurazione, e però a quanto pare c'è qualche problema con i sindacati, perché non tutti in quel 1 maggio, il giorno della festa del lavoro, vogliono lavorare. Infine, una storia dalla Svizzera, che arriva da un paesino della provincia di Bellinzona, nelle vicinanze di Bellinzona, scusate, ho detto provincia, ma naturalmente stiamo parlando del Ticino, quindi non di provincia si parla. Che cosa succede? Che un sindaco si è inventato degli adesivi che le aziende e i negozi possono mettere e possono attaccare, e su questo adesivo indicano che loro impiegano manodopera elvetica e non italiana. La cosa sta naturalmente suscitando qualche malumore, soprattutto tra i frontalieri. Naturalmente però iniziamo, come si diceva, dal presidente della Repubblica, dal neo presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il suo discorso iniziale, il suo discorso di apertura dopo il giuramento, partito dalla crisi, si è articolato lungo una serie di direttrici. Da una parte la necessità di riconnettere il tessuto sociale del paese strappato dalla crisi stessa, dall'altro la necessità di dare piena attuazione anche lungo questa linea alla Costituzione, anche nelle parti sull'uguaglianza, sul diritto al lavoro, su quello allo studio, e poi qualche stoccata più o meno velata, più o meno nascosta ai partiti. Un discorso che comunque al momento sembra mettere d'accordo tutti, anche il Movimento 5 Stelle e quel Silvio Berlusconi che si è sentito talmente escluso da come sono andate le cose sull'elezione del Presidente della Repubblica, che nel ricevimento al Quirinale ha avuto uno scambio di battute con Renzi e gli ha dato del birichino. Comunque sentiamo la cronaca di questo discorso dalla nostra Elisabetta Fiorito. Sì, buongiorno, un discorso di 32 minuti intervallato da 42 applausi, il più lungo, una standing ovation sulla resistenza. Sergio Mattarella giura a Montecitorio da Presidente della Repubblica e delinea i principi ispiratori del suo futuro settennato, primo tra tutti quello di arbitro nelle riforme istituzionali e sulla legge elettorale al vaglio del Parlamento. Allora, sentiamo proprio questo passaggio. Nel linguaggio corrente si è soliti tradurre il compito del Capo dello Stato nel ruolo di un arbitro, di garante della Costituzione. È un'immagine efficace. All'arbitro compete la puntuale applicazione delle regole. L'arbitro deve essere e sarà imparziale. C'è poi lo sguardo alla crisi economica e alle difficoltà degli italiani. Serve l'impegno di tutti per superare i sacrifici e le angosce dei nostri concittadini. Sentiamo questo passaggio. Dobbiamo saper scongiurare il rischio che la crisi economica intacchi il rispetto di principi e valori su cui si fonda il patto sociale sancito dalla Costituzione. Per uscire dalla crisi, che ha fiaccato in modo grave l'economia nazionale e quella europea, va alimentata l'inversione del ciclo economico da lungo tempo attesa. È indispensabile che al consolidamento finanziario si accompagni una robusta iniziativa di crescita da articolare innanzitutto a livello europeo, Nel corso del semestre di presidenza dell'Unione Europea appena conclusosi, il Governo, cui rivolgo un saluto e un augurio di buon lavoro, ha opportunamente perseguito questa strategia. Sussiste oggi l'esigenza di confermare il patto costituzionale che mantiene unito il Paese e che riconosce a tutti i cittadini i diritti fondamentali e pari dignità sociale. E impegna. E non ha parlato solamente di questo, Mattarella ha parlato di mafia, di corruzione, ci arriveremo tra un attimo, però si è rivolto, e questo ci è sembrato un punto interessante, ai giovani parlamentari. Ha ricordato come questo Parlamento sia particolarmente giovane e ci siano molte donne, soprattutto rispetto alle camere del passato, e poi appunto si è rivolto espressamente a loro. Sentiamo. I giovani parlamentari portano in queste aule le speranze e le attese dei propri coetanei. Rappresentano inoltre, con la capacità critica e persino di indignazione, la voglia di cambiare. A loro, in particolare, chiedo di dare un contributo positivo al nostro essere davvero comunità nazionale, non dimenticando mai l'essenza del mandato parlamentare. L'idea, cioè, che in queste aule non si è espressione di un segmento della società o di interessi particolari. Infine il tema della corruzione e della mafia. Sentiamo anche questo passaggio. La lotta alla mafia e quella alla corruzione sono priorità assolute. La corruzione ha raggiunto un livello inaccettabile. Divora risorse che potrebbero essere destinate ai cittadini. Impedisce la corretta esplicazione delle regole del mercato, favorisce le consorterie e penalizza gli onesti e i capaci. La nostra Elisabetta Fiorito ha chiesto un commento al ministro della giustizia, il ministro, come dire, direttamente coinvolto su questi temi, Andrea Orlando, e lo ha intervistato. Ascoltiamo. Allora, un discorso che ha toccato tutti i punti, anche la lotta alla mafia e alla corruzione, ministro. Sì, mi sembra che abbia opportunamente segnalato queste come tra le emergenze nazionali, in particolare sul fenomeno mafioso. Mi sembra importante la sottolineatura di come questo fenomeno si sia espanso in aree che non sono quelle tradizionali di insediamento, e sulla corruzione la sottolineatura della tara che questo flagello implica per la collettività e per le risorse della collettività. Ma secondo lei, quando andrà al Quirinale, dovrà analizzare l'Italicum oppure le riforme costituzionali, come si comporterà? Sarà un giudice severo? Si comporterà come credo indica la Costituzione. Penso che la tentazione di tirare per la giacca il Presidente della Repubblica si sia manifestata ancora prima della sua elezione. Penso che sarebbe meglio evitarla, diciamo, perché credo che la imparzialità e l'equilibrio del Presidente Mattarella sia di per sé una garanzia. Come avete sentito un attimo fa, 42 applausi, sono naturalmente veramente tanti. Il discorso è durato 34 minuti, probabilmente sarebbe durato molto meno, si parlava di 20 minuti prima, e molti applausi sono partiti anche dai banchi del Movimento 5 Stelle. Era in parte inaspettato tutto questo. Evidentemente le parole d'ordine utilizzate dal neo presidente sono piaciute al movimento di Beppe Grillo, quantomeno le parole d'ordine, e poi dicono: aspettiamo i fatti. Abbiamo intervistato Carla Ruocco, che è una deputata del Movimento 5 Stelle e fa parte di quello che noi giornalisti impropriamente, e loro si offendono molto quando lo facciamo, chiamiamo il direttorio, ossia quelle cinque persone selezionate da Grillo per fare da cinghia di trasmissione con il movimento e con gli eletti. Ascoltiamo cosa ci ha detto la Ruocco. Il nostro giudizio, come sempre, non è un giudizio aprioristico. Il Presidente oggi ha toccato alcuni temi a noi molto cari, quelli dell'istruzione, della scuola, della sanità, della legalità, e quindi ovviamente l'abbiamo applaudito nei contenuti. Ora aspettiamo dal Presidente una concretizzazione anche del suo ruolo di garante, cui lui più spesso ha fatto riferimento all'interno, nell'ambito del suo discorso, quindi lo aspettiamo comunque alla prova dei fatti. Arbitro ha detto però sta a voi giocare con correttezza, voi intendo tutti, non solamente voi del Movimento 5 Stelle. Noi del Movimento 5 Stelle sicuramente facciamo, abbiamo fatto e facciamo e faremo la nostra parte. Siamo cittadini all'interno delle istituzioni, quindi non dimentichiamo i problemi della cittadinanza sul territorio. Io per prima sono mamma di due figli con due bambini alla scuola statale, per cui so perfettamente i cittadini contro cosa si devono scontrare oggi come oggi in Italia nel quotidiano. E quindi con la stessa tenacia continueremo a fare quello che abbiamo fatto finora, restituiremo gli stipendi, daremo gesti di insomma, cercheremo di sottolineare sempre la legalità, la trasparenza come valori fondanti delle istituzioni italiane. Senta Rocco, diciamocelo, dal vostro punto di vista poteva anche andar peggio come presidente. Noi abbiamo avuto un ruolo importantissimo, quello di migliorare sicuramente la qualità della scelta. Ricordiamo che i nomi che erano stati fatti erano Amato. Beh, piuttosto mi scusi Rocco, però forse più di voi ha contato la fronda interna al Partito Democratico nella scelta di Renzi. Beh, la fronda interna al Partito Democratico a chi si poteva agganciare se non a noi? Noi abbiamo fatto un nome che in qualche modo poteva mettere insieme il nome di Prodi, poteva dar vigore alla fronda interna del Partito Democratico, la quale ha trovato cuneo attraverso questo nome e ha potuto in qualche modo imporre un nome diverso e quindi di conseguenza abbiamo scongiurato, come dicevo, dei nomi. Quindi se la scelta è buona, se la scelta è buona è merito vostro, dice? Guardi, come io non sono così, francamente io non prendo in giro le persone, per cui non posso dire che è solo merito nostro, sarebbe assurdo, ma sicuramente abbiamo avuto un ruolo fondamentale. Ultima nota, di quest'ampia pagina dedicata al discorso insediamento, al discorso insediamento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, riguarda le citazioni. Chi ha citato in questo discorso Mattarella? Ha citato Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Forse l'unico momento di commozione del presidente, che come ormai sapete è fratello e ha perso il fratello, Piersanti Mattarella, ucciso dalla mafia, era il presidente della regione siciliana e proprio da questo, dalla morte del fratello Piersanti, ha deciso di entrare in politica. Ha citato i suoi predecessori, ha citato i due Marò e gli italiani rapiti all'estero, come per esempio Padre Dall'Oglio, e poi, parlando di terrorismo, ha citato una vicenda specifica, la vicenda di Stefano Guy Taché, un bambino di 2 anni, morto nel 1982 in un assalto, in un attacco terroristico alla sinagoga di Roma. Abbiamo intervistato su questo il presidente della comunità ebraica romana, Riccardo Pacifici. Si mischiano emozioni diverse, in primo luogo per la citazione del nostro piccolo Stefano Guy Taché, che è figlio di questa comunità, è una memoria condivisa che per tanto tempo avevamo immaginato potesse cadere nell'oblio. Da anni stiamo portando avanti questa battaglia insieme alla famiglia, insieme al fratello Guy Taché, che ricordo che oggi ha 36 anni, fu vittima anche lui accanto a Stefano di quell'attentato, ha subito decine e decine di operazioni. Stiamo lavorando affinché una volta per tutte, senza alcun più indugio, il nome di Stefano Guy Taché venga inserito tra le vittime del terrorismo e quindi ricordato a pieno titolo in tutte le cerimonie che si faranno da oggi in poi. Già il presidente Napolitano aveva reso omaggio alla sua memoria nel 2012, venendo, se non sbaglio, venendo nella sinagoga di Roma per i 70, per i 30 anni della, sì, del ricordo dell'attentato e devo dire che si sovrappone anche il fatto che io sono figlio di una vittima dell'attentato alla sinagoga, perché mio padre fu tra la vita e la morte per circa 3 mesi, fino a che è morto poco mesi fa, diciamo, ha portato con sé nelle carni, in senso non solo metaforico ma fisico, le schegge di quelle bombe che vennero lanciate. È un segnale importante perché si unisce ad una memoria che è del presente. E siamo all'estero, andiamo all'estero e partiamo dalla situazione in Ucraina, che è sempre più tesa, le violenze aumentano, le vittime civili sono 16 nelle ultime 24 ore e Amnesty International parla di violazioni da entrambe le parti, ossia sia dalla parte dei filorussi sia dalla parte dell'esercito di Kiev. Abbiamo fatto un punto con Gigi Donelli. Che le violenze siano da entrambe le parti ormai è ovvio, dobbiamo ricordare che ormai stiamo parlando di un conflitto che si estende su un fronte di almeno 280 chilometri, poi come in tutti i fronti nella storia non si combatte contemporaneamente in ogni luogo. Le notizie più preoccupanti arrivano da questo ormai da questo villaggio di Debaltseve. Da una settimana si parla del tentativo di accerchiamento che è stato ufficializzato dalle fonti separatiste. Da due giorni le truppe Kiev ha inviato rinforzi, sta inviando mezzi proprio per impedire che questo accerchiamento possa completarsi. Soltanto ieri si parla dell'invio di unità di elicotteri da combattimento. Insomma, stiamo parlando di una guerra vera e propria, ormai è inutile stupirsi della morte dei civili quando i bombardamenti si susseguono. Tra l'altro, a peggiorare la situazione, ieri vi abbiamo parlato della mobilitazione annunciata dai ribelli, no? Che parlavano di intervento di 100.000 uomini, nel senso di raccogliere 100.000 soldati all'interno del territorio occupato. Bene, da una parte il responsabile e leader militare Zakarchenko ha annunciato che la mobilitazione viene anticipata a lunedì. Ora c'è un'altra cosa su cui riflettere: l'intero territorio ha circa una popolazione di circa 3 milioni di abitanti, non si capisce dove potrebbe tirare fuori 100.000 soldati. Che cosa si pensa? Che sia un malcelato tentativo di anticipare un nuovo afflusso di truppe russe, che non dimentichiamo confinano con il territorio separatista, e quindi per coinvolgere ancora più pesantemente in quella vera e propria guerra tra Kiev e Mosca che ormai si profila purtroppo all'orizzonte. E mentre una nuova guerra, Gigi, si profila all'orizzonte, una vecchia guerra, sempre dall'est Europa, torna alla ribalta. Che cosa è successo? Sì, oggi c'è una notizia testuale. La Corte Internazionale di Giustizia dell'AIA ha stabilito che la Serbia non commise genocidio nei confronti dei croati di Vukovar. Quindi stiamo parlando del 1991. Una guerra che anche in quel caso venne a lungo sottovalutato e in qualche modo considerata quasi una faida interna ai paesi slavi. Bene, anche questa notizia vale la pena di leggerla con attenzione. La Corte Internazionale dice sostanzialmente che non ci sono le caratteristiche del genocidio, che secondo le convenzioni ONU si prefigura quando c'è il tentativo di distruggere in tutto o una parte o un gruppo su base etnica, razziale o religiosa. Come dire, i serbi non volevano eliminare interamente i croati, ma sicuramente hanno compiuto una guerra drammatica, in particolare contro città come Vukovar. A questo punto vale la pena ricordare che tre giorni fa però il Tribunale Penale Internazionale dell'AIA ha invece confermato tutte le condanne, qui sì, per genocidio, per quanto riguarda gli episodi tristemente noti di Srebrenica. E poi, visto che si parlava un istante fa di terrorismo, c'è naturalmente la questione di ISIS. Sono stati ritrovati dei documenti su internet nei quali ISIS, ma ancora non è chiara la veridicità di questi documenti, sicuramente traggono origine dall'estremismo islamico, poi che sia ISIS propriamente oppure no, questo non è chiaro, dei documenti che indicherebbero la volontà del califfato di aggredire ancora una volta l'Europa, passando da una parte dalla Turchia e dall'altra parte naturalmente dall'Italia e da Roma, che non è la prima volta che lo diciamo, per l'ISIS rappresenta un simbolo. The Islamic State 2015, si intitola così un documento di 100 pagine diffuso via internet in cui si minaccia esplicitamente, oltre che la Spagna, anche l'Italia. La prima parte è una sorta di vademecum che illustra gli obiettivi dell'ISIS. Ci sono tra l'altro piantine con la capitale cerchiata in rosso e una serie di foto di combattenti. Il riferimento al nostro paese è a pagina 90, dove si propone un versetto tratto dai detti e i fatti del profeta: attaccherete l'Arabia e Allah vi darà la vittoria, quindi la Persia e Allah vi renderà vittoriosi, quindi Roma e Allah vi darà la vittoria. Nel documento si mette a punto una strategia militare che fonti di intelligence definiscono irrealistica, mentre appare molto probabile che l'obiettivo sia quello di fare proseliti in Europa, ed è per questo che si stanno passando al vaglio una serie di account Twitter per accertare se si tratti di possibili referenti europei. Ci sono le regole anche che i membri dell'ISIS devono seguire con tanto di scansione della giornata, sveglia alle 4.45, silenzio alle 22, e i vantaggi di aderire allo Stato Islamico, spesa mensile garantita, niente affitto né bollette. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Siamo alla cronaca italiana, come si diceva, due storie. Innanzitutto quella del sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca, adesso decaduto da sindaco. Pochi giorni fa il TAR ha accettato il suo ricorso, rimettendolo sulla poltrona di sindaco di Salerno. Il prefetto lo aveva sospeso per effetto della legge Severino dopo la condanna a un anno per abuso d'ufficio. Ma oggi Vincenzo De Luca decade di nuovo, questa volta per una vicenda che risale al periodo compreso tra maggio 2013 e febbraio 2014. La notizia di stamattina: la Corte d'Appello ha confermato la decadenza del sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca, a causa dell'incompatibilità tra l'incarico di primo cittadino e viceministro alle infrastrutture ricoperto durante il governo di Enrico Letta. Confermata quindi la sentenza in primo grado del 24 gennaio 2014, arrivata dopo l'esposto di tre parlamentari 5 Stelle. Procederemo all'immediato ricorso in Cassazione, replica De Luca, e aggiunge: la decadenza evita la nomina del commissario e lo scioglimento del Consiglio, lasciandomi così libero di sviluppare l'iniziativa in vista delle primarie in campagna attese per il 22 febbraio. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Trattativa in corso, siamo a meno di 90 giorni all'Expo 2015 e ancora ci sono incertezze sul concerto di apertura di Expo. Il 1° maggio dovrebbe esserci la Turandot e però non tutti i sindacati, non tutti i dipendenti della Scala sembrano essere convinti che questo concerto si possa fare. Sentiamo. Andrà o non andrà in scena il 1° maggio la Turandot alla Scala di Milano? Questo è il problema, direbbe Amleto. E dato che dal prossimo 19 febbraio verranno messi in vendita i biglietti dell'opera di Puccini, i tempi per sciogliere la riserva sembrano piuttosto stretti. Ancora non si sa se i dipendenti del Piermarini daranno la loro disponibilità ad andare sul palco nella giornata dedicata alla festa del lavoro, che quest'anno coincide con il giorno dell'inaugurazione di Expo. Al momento sono ancora tutti abbottonati, ma trapelano voci per le quali orchestrali e coristi sembrerebbero per lo più favorevoli a non far saltare la prima diretta dal maestro Riccardo Scelli. Il settore più a rischio pare invece quello degli elettricisti, una quarantina in tutto e piuttosto agguerriti, mentre tecnici e macchinisti, di cui molti aderenti alla CGIL, fanno parte dell'altro settore chiave per capire se si alzerà o meno il sipario. Chissà se gli appelli del segretario della CGIL Susanna Camusso e del sindaco di Milano Giuliano Pisapia serviranno a convincere i lavoratori della Scala, per i quali pare non si tratti di una battaglia per avere più soldi oltre a quelli già offerti dalla sovrintendenza, con incrementi che vanno dal 100 al 140%, ma per difendere il diritto inalienabile di festeggiare il 1° maggio. In caso di risposta negativa, la proposta alternativa è di anticipare la prima di Turandot al 29 o al 30 aprile. Al momento è difficile fare previsioni, la battaglia si gioca sul filo del rasoio, ma una cosa è certa: è un appuntamento troppo importante e non andare in scena rappresenterebbe un danno d'immagine in vista di Expo. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E chiudiamo raccontando la storia di Claro. Claro è un paese vicino a Bellinzona dove il sindaco, l'amministrazione comunale, siamo in Svizzera, si è inventato una sorta di rating. C'è un adesivo che le aziende o i negozi possono attaccare, un adesivo nel quale dicono che impiegano manodopera elvetica e non italiana, addirittura potendo indicare la percentuale 20%, 40%, 60%, 80%. Il sindaco di Claro, Robert Keller, che abbiamo avuto ospite, ci dice: no, guardate, non è razzismo, è che i nostri giovani hanno bisogno di lavorare. In realtà non è assolutamente da intendere come un movimento xenofobo contro l'Italia, che anzi noi abbiamo sempre sentito come fratelli, ci mancherebbe altro, ma è per il fatto che i nostri giovani a poco, come d'altra parte nel resto dell'Europa, non trovano lavoro. Noi abbiamo lavoro, ma il salario italiano è notevolmente più basso del nostro, tante volte più della metà. E questo fa sì che questi giovani girino e non trovino posto, eppure i posti ci sono. E quello che più dà fastidio è che le ditte dicono: beh, noi siamo svizzere, ma in realtà sono svizzere, ma si avvalgono di questa opportunità economica di avere del personale a prezzi molto ridotti. A quanto siete dal confine voi, Keller? Una sessantina di chilometri? Sì, più o meno, sì, però la nostra iniziativa va su tutto il cantone. Quindi significa che le ditte che possono essere al sud del cantone, quindi a Chiasso o al nord, sul Gottardo, a Airolo, possono arrivare da noi, autocertificarsi e ricevere questo logo. Ah, quindi è un'iniziativa estesa su tutto il Ticino, che però parte dal comune di Claro, cioè siete voi che stampate gli adesivi in sostanza? Esatto, li stampiamo e li distribuiamo con un impiego di 15 secondi e un'autocertificazione. Basta l'autocertificazione per le aziende. Lei sa che da questa parte la cosa può essere vista piuttosto male, insomma, da questa parte del confine? Ma direi di sì. Poi discutendo con un vostro collega mi dice, anche noi abbiamo dei ragazzi, abbiamo persone che cercano lavoro e ci fa male. E adesso lui me lo diceva, dice sì, poi abbiamo anche cinesi che riescono a vendere a sotto costo e noi non troviamo più lavoro. Quindi credo che il problema è un po' dappertutto esistente, è una questione di equilibrio. Noi siamo piccolini, siamo 300.000 persone, con non so se siamo attorno ai 60.000 lavoratori che entrano tutti i giorni, quindi capirà che è una quantità che va oltre quello che molto probabilmente è un equilibrio sano anche economico, no? E dato da una paga oggettivamente molto, molto più bassa, no? Sento una cosa, sindaco, ma là però c'è anche un problema di costi per le aziende, evidentemente, no? Certo. Non è che, come si diceva qualche tempo fa da queste parti, gli italiani fanno lavori che gli svizzeri non vogliono fare? Ma guardi, sicuramente questo fa parte appunto dell'equilibrio. Il problema è quando questo equilibrio viene rotto. Noi abbiamo visto situazioni dove persone delle nostre zone venivano lasciate a casa e venivano prese delle persone di uguale fattura, diciamo così, di uguale formazione, a un prezzo enormemente più basso, no? Quindi la metà o sotto la metà, e questo ci distrugge poco a poco, no? Senta, ma dal punto di vista legale non c'è niente che succede, cioè semplicemente un logo che queste aziende possono voler mettere sull'azienda o marchiando il negozio, così per segnalare agli utenti o eventuali acquirenti o clienti che loro impiegano manodopera svizzera. Ma sì, penso che gli ascoltatori conosceranno TripAdvisor, no? Quando si va in un ristorante e si vedono le stelline, le caratteristiche, eccetera. Questa è un'iniziativa di questo tipo, no? Uno può tenerci o meno, però vede questa caratteristica e dice: io compro qua, spendo da noi 4 franchi in più, però so che ci sono dei ragazzi che sono stati presi e che hanno un futuro, ecco. Ed è veramente tutto per il podcast di oggi di Effetto Giorno. Non mi resta che ringraziarvi per l'ascolto e per aver scaricato. Vi ricordo i nostri contatti: effettogiorno@radio24.it. Mi raccomando, scrivetemi, perché se avete dubbi, domande e soprattutto critiche che ci servono a migliorare, mi fa piacere averle. E poi la nostra pagina Facebook, www.facebook.com/effettogiorno, oppure il mio account Twitter, Simone Spezia, si scrive con la T, Simone Spezia, mi trovate anche là. A domani.